Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Negli ultimi anni è come se l'Italia avesse bucato la ruota o fosse caduta in una discesa e il gruppo dei paesi europei andava molto, molto, molto più forte. E gli ultimi dati che arrivano anche sulla crescita dimostrano una cosa molto semplice. Non siamo ancora la maglia rosa, non siamo quelli che crescono più di tutti, ma siamo tornati nel gruppo. E sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, l'Italia quindi vista come una ciclista che ha bucato la ruota, che magari è rotolata per terra, però anche se non è maglia rosa si sta riprendendo, almeno ha riacciuffato il gruppo. Sapete che Matteo Renzi piacciono le metafore, in più piace la comunicazione, infatti questo è uno dei passaggi che ha registrato mettendo su YouTube del suo video. Evidentemente è entusiasta, come sempre ottimista, per i dati che sono arrivati relativi al PIL, al prodotto interno lordo, e anche all'occupazione, che sono dati positivi. È vero che sono sempre zero virgola eccetera eccetera, però insomma visti come un bicchiere mezzo pieno, se vogliamo, anche se poi ci sono degli elementi insomma da valutare meglio, poi entreremo più nei dettagli. Dopodiché senz'altro torneremo, ovviamente lo immaginate, a parlare sempre di immigrazione, perché ci sono dei nuovi sviluppi in negativo, caos in Ungheria perché sono stati bloccati dal governo e dalla polizia dei treni che portavano centinaia di profughi verso l'Austria. Poi c'è la polemica tra l'Austria e la Germania, insomma sembra più che si dividano gli stati dell'Unione Europea più che unirsi, in vista poi del vertice che ci sarà scusate la voce, il 14 settembre prossimo. Poi avremo anche degli aggiornamenti, ci collegheremo con la Sicilia sulla vicenda dei due coniugi uccisi probabilmente da questo immigrato della Cara di Mineo, perché sembra, secondo fonti ancora non ufficiali, che la donna, povera donna della coppia, possa avere anche subito violenza. E poi affronteremo anche il tema del giubileo, perché il Papa ha scritto una lettera in cui annuncia che vorrebbe che i sacerdoti perdonassero le donne che hanno sì abortito ma che si sono pentite, e tra l'altro chiede una grande amnistia. Insomma, tanti temi interessanti. Io vi chiederei anche, per esempio, sul fatto dei coniugi uccisi nel Catanese, se volete intervenire sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, siccome la figlia dei due coniugi è tornata a polemizzare con lo Stato e ha detto neanche un Twitter da Renzi, che tanto comunica di solito, e neanche da Alfano su questa vicenda. Secondo voi sarebbe opportuno che dei rappresentanti così alti delle istituzioni, come sono il Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro dell'Interno Alfano, si pronunciassero su quanto è successo in Sicilia? 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure come sempre lì, comodamente, la pagina Facebook di Effetto Notte per voi. Passiamo allora prima di tutto al riassunto della giornata. Caos profughi, Budapest chiude la stazione ai migranti, assalti ai treni, colpa della Merkel, dicono gli ungheresi, truppe ai confini, e intanto Lega e Crocetta chiedono la chiusura del CARA di Mineo in Sicilia. L'economia italiana a luglio cresce, l'occupazione, anche il PIL meglio del previsto, male invece le borse dopo i dati cinesi, giù anche Piazza Affari, risale il petrolio. Le tasse sulla casa, fonti europee ricordano che il calo sulle tasse relative alle abitazioni è contro le raccomandazioni di Bruxelles. Giubileo, Papa Francesco chiede una grande amnistia e assoluzione per le donne che hanno abortito ma che si sono pentite. Coniugi uccisi in Sicilia, c'è l'ipotesi di violenza sessuale sulla donna, domani funerali a Palagonia. Scuola, la lunga notte questa dei professori, a mezzanotte avranno il responso online per sapere quali saranno le nuove sedi degli insegnanti precari. E per il cinema la mostra di Venezia apre con Everest, 4 italiani in gara. Iniziamo dai nuovi capitoli, vi dicevo, dell'emergenza immigrazione, tra cui il caos di oggi appunto alla stazione di Budapest con il governo ungherese che accusa Angela Merkel. Where are you go? Germany! Where are you go? Germany! Where are you go? Germany! Cori da stadio, in un inglese non sempre corretto, per chiedere di poter raggiungere la loro terra promessa, la Germania. È qui che vorrebbero andare i migranti, in gran parte profughi siriani, ammassati a migliaia davanti alla stazione di Budapest, bloccati dalle autorità ungheresi che hanno deciso di sospendere le partenze dei treni. La polizia ha anche cercato di disperderli. L'Ungheria addossa la responsabilità di quanto sta accadendo in queste ore proprio alla Germania, che nei giorni scorsi, per bocca della cancelliera Merkel aveva fatto sapere di essere disposta ad accogliere tutti i profughi siriani che arriveranno sul suo territorio. Per affrontare l'emergenza migranti, il governo ungherese conferma invece la linea dura e ha annunciato l'invio di 3.500 militari nei confini meridionali del paese, dove le barriere di filo spinato erette nelle scorse settimane per ora non sono riuscite a fermare gli arrivi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo ritorneremo su questo argomento, anche sulle cifre ufficiali di quanti sono arrivati sulle nostre coste quest'anno e anche quanti sono morti. Intanto ci spostiamo però sull'economia italiana, perché l'Istat, vi dicevo, rivede al rialzo le stime sul PIL. C'è anche un calo della disoccupazione a luglio al 12%, che è il livello più basso da 2 anni a questa parte. Poi affronteremo più tardi questi dati positivi, anche se il presidente di Confindustria Squinzi auspica che siano confermati anche nei mesi successivi, perché qualcosa potrebbe essere legato a degli effetti stagionali, diciamo, della positività dell'andamento del turismo e a lavori per l'appunto legati a questa stagione. Comunque, in merito poi ai recenti annunci del presidente del Consiglio Renzi su una futura diminuzione delle tasse sugli immobili, arriva il commento di non meglio precisate, stando alle agenzie, fonti europee. La proposta di ridurre, dicono queste fonti europee, le tasse sulla casa è contraria alle raccomandazioni dell'Unione Europea, sottolinea Bruxelles. Il Consiglio ha raccomandato che l'Italia sposti sugli immobili e i consumi il carico fiscale che grava invece su lavoro e capitali. Anche di questo ci occuperemo. Intanto, cosa risponde il sottosegretario Gozzi? Dice il governo anche su questa cosa decide in autonomia. E ora le borse, è stata un'altra giornata negativa. Dopo il peggior agosto degli ultimi anni, anche l'apertura di settembre pesantemente negativa per le borse europee, che oggi hanno bruciato 216 miliardi di euro nella nuova ondata di timori di una frenata cinese. L'attività manifatturiera della Repubblica Popolare è infatti piombata ai minimi del 2009, notizia che ha provocato nuove vendite sui mercati asiatici e poi su quelli europei. A complicare il quadro, l'avvio negativo di Wall Street e l'avvicinarsi della riunione dell'organismo della Federal Reserve, che il 16-17 settembre prossimi prenderà decisione sui tassi di interesse americani. Alla fine Londra ha lasciato sul terreno il 3,04%, Francoforte è scesa del 2,38%, Parigi del 2,40%. Milano ha fatto leggermente meglio delle altre piazze europee, segnando una flessione del 2,24% sul FTSE MIB, grazie ai buoni dati sul PIL e all'annuncio che a luglio la disoccupazione è scesa al 12%, livello che non si vedeva dal 2013. A Piazza Affari male il lusso, ma vendite anche sulle banche, con il Monte dei Paschi di Siena maglia nera con un calo del 4,27%. Il timore di un rallentamento della Cina fa affondare il petrolio a New York, dove le quotazioni arrivano a perdere fino all'8,1%, per poi ridurre le perdite al 7,4% a $45,55 al barile. Questo dopo che nell'ultima settimana il greggio aveva messo a segno un recupero senza precedenti, risalendo in poche sedute di ben $10 al barile. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al giubileo che si aprirà il prossimo 8 dicembre. Tutti i sacerdoti potranno perdonare, dice il Papa, scrive in una lettera, il peccato di aborto, facoltà fino ad oggi riservata ai vescovi diocesiani. Così ha deciso Papa Francesco, scrivendolo in una lettera appunto a Monsignor Fisichella. Pieno perdono a quelle donne che nella loro vita sono rincorse alla pratica dell'aborto e si sono pentite di quanto fatto. A disporlo, invitando i sacerdoti a prepararsi in questo senso, il Papa, che in una lettera al presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, Monsignor Fisichella, in vista del giubileo straordinario, ha reso note alcune disposizioni per accedere al perdono. Per vivere e ottenere l'indulgenza, i fedeli sono chiamati a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta Santa, aperta in ogni cattedrale o nelle chiese stabilite dal vescovo, e nelle 4 basiliche papali a Roma, così come nei santuari dove si è aperta la Porta della Misericordia e nelle chiese tradizionalmente identificate come giubilari. Dal Papa un appello agli Stati, ricordando che il giubileo ha sempre costituito l'opportunità di una grande amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che hanno preso coscienza dell'ingiustizia compiuta. E anche un passaggio dedicato ai lefreviani, confidando, ha scritto Francesco, che nel prossimo futuro si possano trovare le soluzioni per recuperare la piena comunione con i sacerdoti e i superiori e riconoscendo la validità della confessione presso i suddetti sacerdoti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prontamente Andrea da Udine al 349-238-6666. A proposito di questo, dice Papa Francesco, per l'anno giubilare dà la possibilità ai sacerdoti di assolvere l'aborto, facoltà riservata solo ai vescovi. Terminato il giubileo torneranno ad assolvere solo i vescovi. Tutto questo è vero in parte, non è che chiede di assolvere l'aborto, ma con delle precise condizioni, a donne che si siano pentite poi solo appunto in quel il periodo della durata del giubileo. Comunque Andrea e tutte le altre ascoltatrici e ascoltatori, poi ci torneranno torneremo su questo argomento con un vaticanista. Voi continuate con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Intanto la cronaca, proseguono le indagini sul duplice omicidio di Palagonia, non si esclude nel catanese, non si esclude la violenza sessuale sulla donna uccisa. Domani tra l'altro ci saranno i funerali dei coniugi e poi ci collegheremo con una giornalista che in Sicilia segue il caso. E vi chiedevo in questa puntata, fra i vostri vari commenti, se ritenete giusta la richiesta che ha fatto la figlia dei due coniugi. Ieri sapete che ha polemizzato contro le istituzioni dicendo che è colpa anche dello Stato, oggi ha detto che si aspettava almeno un Twitter da Renzi o da Alfano, insomma un intervento su quanto è successo. Secondo voi era importante e necessario che lo facessero, insomma qualche rappresentante alto del governo intervenisse su questo tema? Siamo però sul tema adesso della scuola. Mentre voi riflettete, a mezzanotte di questa notte, insomma, scatta la terza fase della riforma della buona scuola. Ai precari verrà proposta online la sede di insegnamento fra quelle che hanno scelto i candidati a seconda delle disponibilità che ci sono. Gli insegnanti avranno 10 giorni per accettare la scuola proposta. Se non risponderanno o rifiuteranno, magari perché per loro la sede è troppo lontana, perderanno tutti i diritti acquisiti. E restano fuori dal piano di assunzione maestre ed educatrici di scuole d'infanzia e nidi. Anche per loro però la Corte di Strasburgo impedisce la riassunzione oltre i 36 mesi, quindi di fatto molti precari resteranno a casa e molte scuole resteranno senza personale. In 5.000 per questo hanno protestato a Roma davanti al Campidoglio e sentiamo le voci raccolte da Alessandra Schepisi. Con questo bando che hanno tirato fuori dopo 14 anni di precariato, dopo aver praticamente la propria vita messa sempre da parte, adesso dicono che ci vorrebbero congelare e fare una nuova lista di precarie. E noi che fine facciamo? Quindi voi rischiate di trovarvi senza lavoro quest'anno? Non solo quest'anno, anche negli anni a venire. E noi non ci siamo. Dopo 14 anni di precariato o ci assumono o ritirano il bando. Da qui non ci muoviamo. Lei è insegnante dove? Di asilo nido, dal 97. 14 anni di precariato. Quindi voi chiedete che cosa al governo? Noi chiediamo la stabilizzazione, di essere assunte, come dice la sentenza della Corte Europea. Ci incateneremo, dormiremo qua, faremo i presidi. 15 anni di precariato, tutti gli anni con la speranza di prendere qualcosa, perché non è detto poi. Poi quest'anno questa bella sorpresa. La situazione è complessa e anche drammatica, se vogliamo. Parliamo delle unioni gay, perché alla vigilia della discussione al Senato della proposta di legge sulle unioni civili, proposta del governo Renzi, il cantante Scialpi, come aveva annunciato, vi ricordate, all'inizio dell'estate, si è sposato col suo compagno a New York. Dice: ora siamo marito e marito, e l'ha detto in una intervista al settimanale Chi. Ora cambia tutto perché ci siamo dati un ruolo riconosciuto nella società, in una società, attenzione, la nostra italiana, dice, dove non è ancora consentito essere marito e marito. Poi da questo momento il gioco è diventato ufficiale, non siamo più fidanzati, siamo una famiglia. Che tempo farà? Purtroppo in avvicinamento dalla Francia raggiungerà nelle prossime ore le nostre regioni settentrionali, qui a Milano già diluvia, la perturbazione di origine atlantica che sta già facendo registrare appunto un peggioramento delle condizioni meteorologiche che determinerà fenomeni temporaleschi, prima nei settori di nord-ovest e da domani anche su quelli orientali. Per il cinema, per 10 giorni Venezia diventa la capitale del cinema mondiale, fino al 12 settembre alla 72esima mostra internazionale d'arte cinematografica, tanti film, anteprime mondiali, star internazionali sul tappeto rosso, apertura in pompa magna col film Everest, film fuori concorso di Cormacur. 4 i film italiani invece in gara: Sangue del mio sangue di Bellocchio, Per amor vostro di Gaudino, Bigger Splash di Guadagnino e L'attesa di Piero Messina. Per chiudere, il calcio, con le big di Serie A che approfittano della sosta della nazionale per inserire i nuovi arrivati. È 3 anni che siamo insieme in camera, e quindi ieri sera quando me l'ha detto che si poteva chiudere ero un po' dispiaciuto, ma alla fine è rimasto con me e sono contento non solo per quello ma anche come giocatore, ci darà una grande mano. Bene, a questo punto abbiamo riassunto la giornata e tra poco cominceremo a approfondire gli argomenti. Naturalmente prima di tutto andremo sul tema immigrazione. Vi chiedevo, fra le varie cose, i vostri commenti che continuano anche su questo tema delicatissimo, di dire la vostra opinione su una richiesta che aveva fatto la figlia dei coniugi uccisi nel catanese, dicendo almeno le istituzioni, almeno il premier Renzi, il primo ministro Alfano si facciano sentire con un tweet, con un intervento, sono sempre così comunicativi. In realtà in questo caso, dice, non non hanno nulla da dire. Secondo voi sarebbe opportuno oppure che intervenissero, oppure finisce che per qualsiasi caso di questo tipo, pur terribile, drammatico, debbano poi intervenire, che sia attraverso social network o in un altro modo? 349-238-6666 per i vostri sms, se no sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto c'è Davide che scrive: intanto dico che la figlia ha fatto benissimo a dire le cose come stanno riguardando lo Stato, mentre lo Stato, oltre a dire, dovrebbe fare. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci qui dopo gli aggiornamenti per chi viaggia. Voi continuate con i vostri messaggi sms al 349-238-6666, poi alla pagina Facebook di Effetto Notte, dove potete intervenire giorno e notte liberamente. Intanto, prima di ritornare sul grande tema di questi giorni, che purtroppo di questi giorni in realtà da mesi e mesi, e credo appunto inevitabilmente e purtroppo che ne continueremo a parlare piuttosto quotidianamente. Comunque, queste le altre notizie principali. Quello dell'immigrazione, intendevo PIL, il prodotto interno lordo meglio del previsto secondo i dati Istat, bene anche il lavoro. Renzi dice l'Italia riparte, il presidente di Confindustria Squinzi però sottolinea però ora le riforme, mentre la leader della CGIL Camusso dice basta propaganda. Budapest chiude la stazione migranti, dice colpa della Merkel tutto questo flusso incontrollato di migranti, ci sono truppe ai confini, l'Unione Europea richiama l'Italia, dice ci sono degli arrivi non registrati. E poi il Papa a tutti sacerdoti in vista del giubileo chiede di assolvere chi le donne che hanno abortito però che si sono pentite durante, di perdonarle durante l'anno santo, ed evoca anche una grande amnistia. Poi un satellite dell'ONU conferma che l'ISIS ha raso al suolo il tempio di Bel, è stata sfregiata quindi Palmira. E poi coniugi uccisi, c'è l'ipotesi di violenza sessuale sulla donna, domani ci saranno i funerali a Palagonia. E poi ancora Venezia che tira sul sipario, ci sono 4 italiani in gara. Quello che avete sentito è, diciamo, minima parte del caos che si è vissuto oggi a Budapest, in Ungheria, dove nella stazione ferroviaria sono stati bloccati per almeno 2 ore, però pare che il caos continui, i treni di chi vuole raggiungere il nord dell'Europa, con forti proteste, come avete sentito, dei migranti. C'erano a bordo centinaia di profughi, di immigrati, diretti soprattutto verso Austria e Germania. Il governo ungherese ha inviato al confine serbo 3.500 militari, dice questa situazione è colpa della cancelliera Merkel. Nel frattempo sale però anche la polemica tra Austria e Germania sull'accoglienza e la registrazione, perché pare che secondo voci di corridoio, dicono dall'Austria, ci sono rumors secondo i quali la Germania sta addirittura mandando i treni a Budapest per prendere i rifugiati. Dice l'Austria, la cosa più importante è che la Germania informi i rifugiati in Ungheria che gli accordi di Dublino non sono stati sospesi. Insomma, poi c'è Praga in Repubblica Ceca che valuta l'invio di un esercito alla frontiera. Insomma, c'è un gran caos e pare che in vista del vertice straordinario europeo del 14 settembre sull'emergenza e immigrazione ci sia più un chiudersi di ogni nazione su se stessa, di un litigare, che non trovare un possibile accordo comune, delle misure, delle soluzioni condivise. Ne torniamo a parlare col professor Edoardo Greppi, docente di diritto internazionale all'Università di Torino. Buonasera, professore. Buonasera. E poi sentiremo anche Flavio Di Giacomo, portavoce dell'OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che hanno anche dei dati, hanno pubblicato dati ufficiali sugli arrivi sulle coste del Mediterraneo. Buonasera Di Giacomo. Buonasera a te. Allora, professor Greppi, visto che insomma ci eravamo lasciati ieri con le polemiche create dalla dichiarazione della ministra britannica dell'interno, che diceva da adesso in poi noi cerchiamo, una lettera, insomma, non è ancora nulla di deciso da parte del governo della Gran Bretagna, da ora in poi noi daremo un giro di vite agli stranieri che verranno verso la Gran Bretagna, anche europei, no? Ci eravamo detti che però finché rimane, benché sia in vista un referendum in Gran Bretagna, mi pare che hanno detto che l'ultima data dovrebbe essere il 2017 per decidere se rimanere uniti o no all'Unione Europea, in vista di allora sì, c'è il governo conservatore di Cameron che continua a fare annunci di questo tipo. Però vedo che si spande un po' questo panico, questa rigidità a livello degli altri paesi europei, come lo vogliamo definire. sicuramente questa è una contraddice in maniera evidente lo spirito dell'integrazione europea, per cui questo tipo di problemi andrebbero gestiti nell'opportuna sede che è quella dell'Unione Europea e delle sue istituzioni. È un pessimo segnale che gli Stati siano così inclini a cercare di fare ciascuno per proprio conto, perché, ripeto, questo contraddice lo spirito del processo di integrazione europea, che su questi temi era andato piuttosto avanti. Allora, questa è la prima riflessione. La seconda riflessione è ovviamente che siamo di fronte a una situazione estremamente caotica nella quale gli stessi governi dichiarano, fanno seguire una serie di dichiarazioni incoerenti rispetto anzitutto alle regole attualmente vigenti e alla volontà di rispettarle da parte di tutti. E in secondo luogo rispetto alle modalità di attuazione, cioè ciascuno nel fare da sé mi sembra che stia facendo dei grandi pasticci. Allora, a monte ci sta evidentemente la necessità, forse anche doverosa, perché così sta nelle regole dell'Unione Europea, anche di controllare, gestire, tra virgolette, governare questi flussi. Questo gli Stati e l'Unione Europea stessa hanno il diritto di farlo. Quanto alle modalità, le modalità sono anche importanti. Allora, questo eccesso di muscoli da parte di un governo come quello ungherese sicuramente non è compatibile con alcune regole non solo di diritto dell'Unione Europea ma anche di diritto internazionale, e questo è un ulteriore problema che non semplifica. Che poi da parte di qualche governo si chieda di verificare la condizione di ciascuno di ciascuna di queste persone è pienamente legittimo, cioè da quello che si è visto in televisione una pressione di massa evidentemente non è modalità giusta da parte di chi entra in uno Stato membro dell'Unione per far valere le sue pur sacrosante ragioni. Quindi direi che tutto l'insieme richiede che il 14 settembre a questa riunione straordinaria gli Stati europei ritrovino la capacità di dialogare, di negoziare delle condizioni ragionevoli e di applicare correttamente le norme esistenti e muoversi negli spazi che la normativa esistente lascia agli Stati. Un bel auspicio, staremo a vedere poi il 14 settembre effettivamente cosa emergerà da questo vertice. Professor, è una grossa responsabilità da parte loro. D'altra parte non dimentichiamo che la notizia che i disordini di Budapest hanno messo un po' in secondo piano, oggi l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo per una detenzione ed espulsione di tre tunisini, sì, avvenuta nel 2011, e devo dire, ho appena sbirciato la sentenza, non l'ho ancora letta, però sicuramente a carico di uno Stato come il nostro, ecco, questa decisione giudiziaria ha un peso di un certo rilievo. Flavio Di Giacomo, dicevamo portavoce dell'OIM, che è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, avete pubblicato i dati ufficiali di quanti sono arrivati nel Mediterraneo sulle coste italiane o anche della Grecia e anche quanti sono morti in quest'anno? Eh sì, noi abbiamo un team che lavorano sia nel sud Italia e anche in Grecia e altri paesi europei, quindi giornalmente possiamo verificare il numero di arrivi. Quest'anno siamo arrivati a un totale di 351.000 persone che sono arrivate nel Mediterraneo, di cui la maggior parte in Italia e Grecia. In Italia 114.000, che è una tendenza praticamente uguale a quella dell'anno scorso, nello stesso periodo dell'anno, mentre in Grecia sarebbero arrivate 234.000 persone. Calcoli che l'anno scorso, in tutto il 2014, in Grecia erano arrivate 34.000 persone, quindi stiamo parlando di un aumento esponenziale. Di 1000% in più anche, quindi si tratta soprattutto di siriani e afghani, persone che fuggono da guerre o comunque situazioni di conflitti che vengono per chiedere asilo in Europa. Ne sono morti quanti? 2600 mi sembra di sono morte 2643 persone quest'anno. È un calcolo, è una stima che noi facciamo per difetto, perché noi sappiamo le persone che arrivano ma non possiamo mai sapere di quanti in realtà siano partiti. E la maggior parte di queste persone, 2.500 circa, sono morte nel canale di Sicilia. La rotta del Mediterraneo centrale è sicuramente quella più pericolosa, per vari motivi, innanzitutto perché purtroppo queste persone sono vittime di trafficanti particolarmente crudeli e violenti, e sappiamo tutti le condizioni in cui sono costretti a viaggiare su queste imbarcazioni, inclusi nella stessa aria, soffocati dalle esalazioni di fumo dei motori, e quindi imbarcazioni che dopo 10 ore già cominciano a imbarcare acqua e ad affondare. Purtroppo questa è una realtà che conosciamo purtroppo piuttosto bene. Di Giacomo, le volevo chiedere, ieri ho sentito il direttore del CARA di Mineo, che è di nuovo nell'occhio del ciclone, che è già coinvolto in diverse inchieste, questo centro di accoglienza che è il più grande d'Europa, e da lì pare venga anche questo presunto assassino dei due coniugi nel Catanese. È stato veramente un delitto molto brutale, adesso si parla addirittura anche di violenza sessuale sulla donna, e ci sono già richieste nel passato di chiusura di questo centro. Oggi sono tornate di nuovo a parlarne Salvini della Lega, ma anche il Movimento 5 Stelle, anche Forza Italia, persino il presidente della Sicilia Crocetta ha detto che è un centro di malaffare, di delinquenza. Che cosa ne pensa? Ma il CARA di Mineo è stato istituito nel 2011, quando ci fu la prima grande flusso di migranti che arrivavano soprattutto da Tunisia, e poi in seguito alla guerra in Libia, 60.000 persone quell'anno, ed effettivamente è il più grande centro di accoglienza di tutta Europa, perché in questo momento penso ci siano 3.000 o 4.000 persone, insomma. 3.000 persone, qualcosa diceva ieri. Sì, 3.000, poi varia a seconda dei momenti. Però sì, effettivamente ci sono delle problematiche quando si tratta di un centro così grande, che tra l'altro si trova praticamente in mezzo a nulla se si va a visitarlo, è una strada, insomma. Non c'è. Devo dire che però da questo punto di vista il governo italiano ha fatto un grandissimo sforzo nel tentativo di trovare posti di accoglienza a tutti i migranti che sono arrivati. Fermo restando che una buona parte dei migranti che sono arrivati l'anno scorso e che arrivano quest'anno, sappiamo che di fatto poi continuano il loro viaggio verso nord, l'Italia come un paese di transito. Credo che in questo momento siano tra 80 e 90.000 persone in accoglienza in Italia, e il governo continua a cercare sistemazioni, perché chiaramente sono tutte persone che sono richiedenti asilo e chiaramente poi devono essere ascoltati dalla commissione, che deciderà se hanno dare qualche tipo di protezione o no. Qua c'è stato tutto il discorso su chi è migrante economico e chi è veramente richiedente asilo, che è piuttosto complesso. A questo proposito, ritorno sul professor Greppi. Ieri diceva Maccarone, appunto direttore del CARA di Mineo, anzi sentiamo questo passaggio breve, perché la figlia di due coniugi uccisi diceva: ci vogliono più controlli, perché non c'è un metal detector mentre entrano e escono da questo centro, perché non... invece non è questione di più controlli, perché pare che il direttore, anzi ieri l'ha detto, qui non sono in libertà, in realtà non è un carcere, quindi entrano e escono senza nessuna limitazione. Il centro d'accoglienza è proprio un centro di accoglienza per richiedenti asilo, pertanto non è un carcere, non è una struttura chiusa. E, insomma, giuridicamente il governo italiano predispone queste strutture proprio nell'attesa, per persone indigenti, nell'attesa del completamento del loro iter procedurale per l'ottenimento dei documenti come richiedenti asilo. Pertanto, come tali, queste persone vengono gestite, cioè non c'è un limite, diciamo così, una limitazione della libertà, della libertà personale. Ecco, chiedo professor Greppi, siccome c'è un ascoltatore fra i vari che scrive Marco, dice: la vita delle persone per loro vale come la vita di un gatto, ecco perché uccidono, loro sono qui ma loro non vivono secondo la nostra mentalità, vivono secondo la mentalità africana. Adesso, al di là della provenienza, noi abbiamo già i nostri delinquenti nostrani, ne abbiamo in abbondanza di uomini che delinquono in tutte le direzioni. Qualcuno si preoccupa che vengano in aggiunta, e che magari, visto che il nostro dovrebbe essere un paese civile con dei valori condivisi, e già abbiamo tanti uomini che delinquono, ammazzano, violentano, eccetera, ci si chiede, in paesi dove magari c'è miseria, guerra, forse la vita vale ancora meno. Che ne pensa professor Greppi, visto che appunto si dice arrivano, ma per esempio nel centro di Mineo non c'è limitazione ai movimenti, all'entrare e uscire? La risposta proprio chiusura. Io distinguerei i due aspetti. Uno è quello squisitamente di diritto internazionale e di diritto dell'Unione Europea. In base alle norme vigenti, chi entra, mette piede sul territorio nazionale italiano può essere spinto da motivazioni diverse, che possono essere appunto quello di richiedere asilo e di ottenere lo status di rifugiato, oppure per delle motivazioni che sono appunto i cosiddetti migranti economici, ecco, per cercare una vita migliore, eccetera. Nel primo caso gli obblighi internazionali che gravano sugli stati che hanno firmato e ratificato i principali strumenti di diritto internazionale a partire dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati sono molto precise e pongono degli obblighi molto precisi a carico appunto degli stati. Nel caso di altre figure che richiedono di essere accolte perché lasciano condizioni di miseria, di disoccupazione, di paesi e cercano una vita migliore, ecco, su questo gli stati godono di una molto maggiore libertà di manovra e nel determinare i criteri con i quali scegliere se accettare o meno queste persone sul loro territorio. In ogni caso lo Stato di accoglienza ha diritto a pretendere che determinate norme vengano rispettate, di controllarne il rispetto e quindi diventa il secondo aspetto, diventa un problema di organizzazione interna dello Stato, interna dello Stato, delle sue strutture, come le organizza, a chi le affida. Nel nostro paese sono venute fuori brutte storie di malaffare circa la costruzione e la gestione di alcune strutture. Questo diventano un business. Ecco, questo non ha nulla a che vedere con il diritto internazionale o con le norme europee, evidentemente questo è un problema tutto nostro, nazionale, e purtroppo sotto questo profilo non ci siamo, ecco. Grazie professor Edoardo Greppi, grazie Flavio Di Giacomo, grazie e buona continuazione. Intanto leggo questo messaggio di Elena al 349-238-6666, altri poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che dice: ma la Germania vuole ospitare solo i profughi della Siria, perché non vuole gli africani? Perché effettivamente, come mi ricordava anche il professor Greppi, come ci siamo sentiti oggi, dalla Siria sta venendo via tutta la classe dirigente, insomma persone molto istruite, formate, laureate. È chiaro che la Germania preferisce, diciamo così, tra virgolette, importare persone di questo livello. Ci sentiamo tra pochissimo, intanto ci prendiamo una piccola pausa di ricreazione. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, vedo i vostri messaggi sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, e i vostri commenti sulla domanda che facevo all'inizio, se ritenete opportuno che la figlia di due coniugi uccisi nel Catanese dica che Renzi e Alfano potevano almeno scrivere un tweet, intervenire, insomma far sentire la loro voce su quanto è successo ai suoi genitori, e invece non lo hanno fatto. Italo, che tra l'altro dice che ascolta Effetto Notte da Burgos in Spagna, perché vi ho detto è internazionale Effetto Notte, l'ascoltano dappertutto attraverso internet per l'appunto, dice Italo, e lo ringrazio. Condivido il dolore e la rabbia della figlia dei signori trucidati in Sicilia. Un governo che non fa rispettare le sue leggi e l'immigrazione clandestina è reato, non merita di guidare uno Stato. Renzi e Alfano sono dei vigliacchi incompetenti. Poi molti altri messaggi che cercherò di leggere dopo, perché adesso prima vi ricordo le notizie più importanti della giornata e poi andiamo sull'argomento. Caos profughi, Budapest chiude la stazione ai migranti, assalta i treni, colpa della Merkel, dicono gli ungheresi, truppe ai confini, Lega e Crociette intanto chiedono la chiusura del CARA di Mineo in Sicilia. L'economia italiana, a luglio cresce l'occupazione, anche il PIL meglio del previsto, le tasse sulla casa, fonti europee ricordano che il calo delle tasse sull'abitazione è contro le raccomandazioni di Bruxelles, giubileo, Papa Francesco chiede una grande amnistia e assoluzione per le donne che abbiano abortito ma che si siano pentite, coniugi uccisi in Sicilia, c'è l'ipotesi di violenza sessuale sulla donna. Per la scuola, la lunga notte dei professori, a mezzanotte avranno il responso online per sapere quali saranno le nuove sedi per gli insegnanti precari, e per il cinema apre la mostra di Venezia. Ancora un messaggio tra i tanti di Luca, che dice: argomento molto molto delicato questo, Renzi si sente molto più a suo agio con i suoi discorsetti positivi e speranzosi piuttosto che su un tema così difficile che ha scatenato ulteriore rabbia. Ne parliamo, torniamo a parlarne con Francesca Aieri Rinella, giornalista del Giornale di Sicilia, che sta seguendo questo caso. Buonasera Francesca. Buonasera a voi. Francesca, quindi, anche se non è ufficiale per il momento, perché mi pare che ci vorranno ancora 60 giorni per una risposta definitiva relativa alle autopsie, addirittura dopo che c'è stata questa uccisione brutalissima, estremamente violenta, dei due anziani coniugi di Palagonia, si dice che potrebbe esserci stata anche violenza sessuale sulla donna? Assolutamente sì, sono i primi esiti dell'autopsia a dare quello che gli inquirenti hanno definito soltanto indizi. Si apprende infatti da fonti investigative che arriveranno solo con analisi successive e saranno confermate che la signora Tanez potrebbe aver subito violenza sessuale. Sul corpo della signora infatti sono state trovate delle ferite, delle ecchimosi e segni di una violenta colluttazione. Se questa ipotesi ovviamente verrà confermata, regge la tesi dell'accusa che dice che chi ha commesso l'omicidio possa averla scaraventata giù dal balcone dopo averla violentata. Quindi si aggrava ulteriormente non solo la drammaticità di questa situazione, di come sono morte queste due povere persone, ma anche di chi è indagato. Per il momento ci sono delle novità sul 18enne ivoriano? Assolutamente fermato? No, il cittadino della Costa d'Avorio al momento risulta fermato solo per rapina aggravata. Però è chiaro che gli investigatori continuano ad indagare perché pensano che a questo punto si faccia sempre più plausibile l'ipotesi che non possa aver agito da solo. Che ci siano quindi dei complici. E che ci siano dei complici. Francesca, per chiudere, però, domani ci sono i funerali dei due coniugi? Sì, domani nel pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe saranno celebrate le esequie e la cerimonia religiosa sarà officiata dal vescovo di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri. Grazie Francesca Ieri Rinella, poi ci risentiamo nei prossimi giorni se ci sono delle novità. Grazie Francesca. Grazie. In Sicilia. Ora cambiamo del tutto argomento. Dicevamo all'inizio che Renzi, abbiamo sentito anzi che diceva che l'Italia non è ancora maglia rosa, però è come una ciclista che è caduta, ha bucato e poi si è ripresa. Risentiamo un altro passaggio di Renzi in questo video che ha messo su YouTube nel suo stile comunicativo. Il mese di settembre è un mese di ripartenza e torniamo tutti al lavoro con la giusta carica. Segnali positivi di crescita nel nostro paese vengono dal turismo, vengono dalla produzione industriale, vengono dall'Expo, che è stato uno straordinario successo e continua ad esserlo, e vengono oggi anche da alcuni dati che l'Istat ha offerto e che sono dati particolarmente significativi. Più 44.000 occupati, meno 143.000 disoccupati. E c'è una sorpresa, quindi questa sull'occupazione, una sorpresa in positivo anche sulla crescita italiana del PIL, prodotto interno lordo, che sebbene sia tuttora confinata a livelli, come si dice, di prefissi telefonici, è stata più forte del previsto. Ne parliamo con il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ben ritrovato Alberto. Buonasera a tutti. Squinzi non era proprio entusiasta, il presidente di Confindustria dice non è che magari sono legate a questioni, non ha detto proprio così, ma insomma a questioni stagionali, no, del turismo che è andato bene a luglio e poi appunto lavori legati proprio al periodo estivo. No, e soprattutto all'effetto del calo fortissimo dei prezzi del petrolio che ovviamente hanno un impatto molto forte poi per un paese che consuma petrolio come noi e quindi ha liberato risorse che sono andate a investimenti a consumi e quindi hanno consentito di far crescere ulteriormente il PIL. C'è chi stima che l'effetto petrolio del calo delle quotazioni del greggio possa valere addirittura mezzo punto. E poi c'è anche l'effetto euro, l'euro basso, l'effetto del QE della Banca Centrale Europea che ha inondato di liquidità i paesi europei, consentendo quindi di aumentare gli stock di risorse disponibili. Ecco, tutti i fattori esterni, diciamo così, che non sono propriamente legati a un vero e proprio colpo di reni, diciamo così, degli attori italiani, del mondo produttivo italiano e del mondo del consumo italiano. Quindi la ciclista Italia ha riacciuffato il gruppo, come ha detto in una metafora Renzi, oppure in realtà è sempre lì che con la catena un po' arrugginita? Renzi lo dice perché in termini medi la crescita adesso si è più o meno allineata alla crescita media della zona euro, cosa che non accadeva da vari anni e che è successa poche volte per la verità per l'Italia, però questo è un fatto, potrebbe essere un fatto ottico, diciamo così, se non si corroborano appunto le istanze della crescita interna, cioè l'aumento degli investimenti, l'aumento dei consumi che ancora non sono così forti. Quindi bisogna aspettare per chiudere, come ha detto Renzi, vediamo nei prossimi mesi se si consolidano questi dati? Eh beh, certo, è fondamentale. Intanto bisogna dire che la crescita incamerata per l'anno è 0,6%, l'obiettivo dei documenti di programmazione economica è al 0,7%, probabilmente sarà centrato, anzi forse verrà anche sfondato a rialzo, ma comunque siamo sempre sotto all'1%. Per avere una crescita che dà un forte impatto anche sull'occupazione bisogna arrivare al 2, 2,5, al 3 possibilmente, insomma bisogna ancora fare parecchi sforzi. Parecchi chilometri. Grazie Alberto Rioli intanto. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vedo fra le notizie nuove un uomo uccide una ragazza di 18 anni a Sedena di Lonato in provincia di Brescia e poi si uccide un uomo di 41 anni, ha soffocato e poi ha coltellato una ragazza di 18 anni e poi si è tolto la vita impiccandosi, tanto per stare insomma su questi fatti quotidiani di violenza anche nostrana, come vi dicevo all'inizio. Le altre notizie più importanti, ve le ricordavo prima, ve le ricordo velocemente adesso, che sono appunto questi dati sul PIL e l'occupazione di cui abbiamo appena parlato, positivi, ma bisogna vedere se si consolidano nei prossimi mesi, e poi il caos immigrati, profughi con Budapest oggi che ha chiuso la stazione, migranti che premevano a centinaia, hanno detto gli ungheresi è colpa della Merkel questa situazione, intanto hanno mandato il governo ungherese truppe ai confini con l'Austria. E poi il Papa che annuncia per il giubileo ai sacerdoti che possono assolvere se si pentono le donne che hanno abortito, lo possono fare durante l'anno santo, di perdonarle. Il pontefice evoca anche una grande amnistia. E poi i coniugi uccisi, c'è l'ipotesi di violenza sessuale sulla donna, domani ci sono i funerali a Palagonia. E per chiudere, Venezia sul sipario, 4 italiani alla sfida del leone. Europa 24 notte. Per Europa parliamo di pomodori. Dopo l'avvistamento in un supermercato del Belgio di confezioni di pomodori con etichetta San Marzano, è scoppiato un caso europeo, perché il famoso pomodoro allungato è protetto dal 1996 dal marchio DOP, il riconoscimento europeo della denominazione di origine protetta, per cui dovrebbe essere esclusiva dell'agro sarnese Nocerino, vicino a Salerno, in Campania. Secondo la leggenda, addirittura San Marzano si fanno in Campania dal 1770. I produttori italiani promettono ricorso contro i produttori fiamminghi. La Fiandra, colosso delle serre in Belgio, si difende, ne facciamo pochi e non abbiamo richiamato il tricolore, ma si tratta di un marchio tutelato dalle norme europee, ora deve intervenire lo Stato membro, come spiega Paolo De Castro, parlamentare europeo e presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale. Il problema è molto serio, perché noi abbiamo delle norme europee molto chiare che tutelano i prodotti a denominazione d'origine in Europa e sono stati ulteriormente rafforzati grazie al pacchetto qualità che venne approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo e che oggi è tradotto di fatto dalle regole non solo comunitarie ma anche dall'applicazione nazionale che è già avvenuta. E questo pacchetto qualità obbliga gli Stati membri, a intervenire ritirando il prodotto dal mercato lì dove c'è un'usurpazione di un marchio certificato. Che cosa si intende fare? Bisogna che le autorità italiane, come hanno fatto già in tantissimi casi, ricordo il caso del prosciutto San Daniele in Inghilterra, il Daniele Hem, ricordo il caso dell'olio toscano, in altri pecorino romano, insomma sono intervenute. Anche in questo caso bisogna immediatamente denunciare alle autorità belghe l'applicazione della norma comunitaria, e l'autorità belga deve, in virtù del regolamento comunitario, intervenire ritirando il prodotto dallo scaffale, perché ripeto, in questo caso il marchio pomodoro San Marzano è assolutamente protetto dalla denominazione d'origine comunitaria e quindi tutelato dalle norme europee. Il San Marzano ha varcato ormai i confini della sua zona d'op ed è coltivato ovunque nella penisola, cioè in Italia. Lo si trova anche in Puglia e in Emilia Romagna. Ecco, da questo punto di vista però siamo in Italia, cioè ci sono anche delle conseguenze e una giustificazione? No, bisogna stare attenti, perché non è vietato coltivare il San Marzano, è vietato vendere il prodotto pomodoro San Marzano DOP, cioè in maniera falsa. Se uno il problema è l'usurpazione del marchio. Quindi uno non può vendere un prodotto San Marzano chiamandolo San Marzano denominazione d'origine, perché in quel caso è un'usurpazione. Ciò non toglie che uno può vendere i pomodori pugliesi piuttosto che in altre, che hanno magari una varietà similare, ma non deve usurpare, deve dire chiaramente pomodori pugliesi. Come pensate di reagire subito? Io farò subito, come ho già anticipato, e quindi già entro oggi sarà pubblicata un'interrogazione parlamentare a risposta urgente, come parlamentare europeo, come membro della Commissione Agricoltura e coordinatore del gruppo S&D. Ma naturalmente non mi fermerò lì, come abbiamo fatto in altri casi. In questo caso è molto più netta la decisione, in quanto non ci sono dubbi rispetto per esempio al prosecco che veniva copiato in Germania con il persecco, no? In quel caso c'è un dubbio sul nome, in questo caso è secco, il nome San Marzano è copiato e quindi sicuramente c'è un'usurpazione di un marchio e sicuramente deve intervenire lo Stato membro. I produttori appunto della Fiandra si difendono perché hanno comprato i semi della qualità contesa e li hanno interrati nelle serre appunto fiamminghe e parlano di qualità, non di DOP. Che cosa rispondiamo? No, il problema è che non possono chiamarlo San Marzano, perché se San Marzano è un nome tutelato dalla denominazione d'origine, loro lo devono chiamare pomodoro delle Fiandre e può anche essere simile al San Marzano, ma non possono chiamarlo San Marzano. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, Clotilde ritorna sull'argomento dell'immigrazione, dice: mi sento straziata a vedere e sentire le scene inumane dei migranti trattati come carne da macello, ma l'Europa a cosa serve? L'ONU dorme, tutti i paesi cosiddetti civili dovrebbero mobilitarsi. Adesso però parliamo del Papa e del Giubileo, perché oggi il Papa ha reso noto in una lettera scritta a Monsignor Fisichella alcune sue decisioni prese in occasione del Giubileo, che partirà, ormai lo sapete, credo l'8 dicembre. E, tra queste, la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno procurato e si sono pentiti di cuore e ne chiedono il perdono, e poi ha parlato anche della richiesta di una grande amnistia. Ne parliamo con Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao anche Roberta, buonasera a tutti. Quindi l'amnistia che ritorna di nuovo a far discutere la politica, riapre il dibattito, no? Però anche questa cosa dell'aborto colpisce. Insomma, diciamo che il tema è enorme per la Chiesa Cattolica, per come la Chiesa Cattolica è percepita dal mondo, diciamo così, secolarizzato, che diciamo la Chiesa non frequenta. L'aborto è un peccato che la Chiesa perdona già, non è che scatena, diciamo così, il tema. La Chiesa, diciamo, un diritto canonico prevede la scomunica, diciamo, di fatto a chi abortisce o chi procura aborto, però i vescovi possono già perdonarlo. Cosa ha fatto il Papa? Ha detto dall'8 dicembre per tutto un anno qualsiasi prete del mondo di fronte a un pentimento potrà dare il perdono. Ora, ma chi naturalmente è interessato a avere il perdono della Chiesa Cattolica? Non saranno tutti, certo, ovviamente, una quota di persone, però in tutto il mondo. Questo è un fatto enorme, perché diciamo così, scardina, anche se solo per un anno, tutta una procedura, e quindi creerà un'enorme attesa non solo fra chi ha, diciamo, interessato, ma anche tra i preti, tra le gerarchie, insomma. Quindi in questo il Papa ha chiamato il giubileo della misericordia, e questo, diciamo così, titolo lo sta attuando. Poi c'è la questione dell'amnistia, che adesso vedremo appunto come sarà affrontata anche dalla politica, visto che è uno dei temi caldi. E tra l'altro la terza novità che scrive il Papa in questa lettera riguarda la mano tesa ai lefreviani, che possiamo definirli dei cattolici oltranzisti, ultratradizionalisti, diciamo così, che non riconoscono sostanzialmente il Concilio Vaticano II, e questo li ha posti fuori, questo gruppo, Fraternità San Pio X si chiama, lefreviani, perché li ha fondati appunto il vescovo francese Monsignor Lefebvre, che è morto da molti anni. Diciamo così, li ha posti fuori dalla Chiesa, cioè loro in teoria non sono scomunicati, lo erano i vescovi, ma sono stati perdonati da Benedetto XVI qualche anno fa, però non possono esercitare il ministero sacerdotale, tuttavia lo fanno ma fuori dalla Chiesa. Il Papa ha detto: i sacerdoti di questo gruppo, di questa fraternità, diciamo, non è una congregazione, in questo anno i propri fedeli, che anche loro sono, diciamo, tradizionalisti, che non riconoscono il concilio, che ancora dicono la messa col rito tridentino, bene, il perdono varrà. Quindi, diciamo così, è stato un passo molto importante, e la cosa significativa è che arriva da un Papa che è lontano anni luce da quel mondo, dal mondo tradizionalista, eppure è proprio questa la forza, cioè Bergoglio, che è un po' rappresenta una Chiesa totalmente diversa da quella, proprio verso questo gruppo, ma non lo fa verso i vescovi, i preti, ma lo fa verso il popolo, verso i fedeli di questo gruppo, che comunque riconosce sono cattolici come noi, dice. Grazie, quindi un'apertura a tutto raggio. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te. Ciao Carlo. Ciao. I lavori tra l'altro a Roma stanno appena iniziando per questo giubileo, visto che, cioè, è alle porte con l'8 dicembre. Ancora il tempo giusto per qualche messaggio da leggere fra i vostri, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, potete aderire senza indugio. Christian dice: certo che ha ragione la figlia dei due coniugi a chiedere un intervento, almeno a voce o sui social network di Renzi Alfano, sono nostri dipendenti al soldo di quella gente comune che non considerano. Claudio: per il PD avrebbe risposto già un parlamentare, non credo che ci saranno ulteriori comunicati di Alfano, sta troppo in alto, dice tra virgolette, per rispondere, piuttosto cercassero di risolvere il problema. Però continuiamo a confermare, sentendo i vari punti di vista, che è un problema davvero delicatissimo, drammatico e di difficilissima soluzione, che andrà avanti per tanto e tanto tempo. Per il momento però ci fermiamo qui, dopo sapete vi riaggiorno alle 22.